desiderato, a volte aperto, delude la tua aspettativa, e ora che splende in mezzo alle tue mani, ha perso tutto il suo valore. Una vittoria pagata a caro prezzo, che a ripensarci non sai se ne valsa la pena. Guardando indietro e poi quel che rimane a metà fra gloria e cenere. L'indipendenza ottenuta col distacco, un'amicizia barattata per un posto, una tavolozza intrisa di colori che contrastano. Ma ogni ponte guarda l'acqua e lascia scorrere. Noi impareremo a crescere, ad ignorare il futile, ad apprezzare il semplice. Noi impareremo a vivere, per quanto sia difficile, ad accettare l'agro dolce. Agro dolce, l'animo confuso, come un'acrobata in affanno per il suo equilibrio, resta in sospeso fra livido e brillante, e non sa come discernere una morale senza indicazione, dove ogni scelta ha comunque un torto, una ragione, dove i confini fra gioia ed afflizione si confondono. Ma ci sarà un momento per un cielo limpido. Noi impareremo a ridere delle preoccupazioni, delle contraddizioni. Noi impareremo a vivere, per quanto sia difficile, ad accettare l'agrodolce. Ma la natura delle cose in sé è molteplice. Noi impareremo a crescere, ad ignorare il futile, ad apprezzare il semplice. Noi impareremo a vivere, per quanto sia difficile, ad accettare l'agrodolce.